E vai, coi due Super Mario l'Italia vola. E alla Merkel le lasciamo il solito rigore. Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente vantaggiosa.